Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e purtroppo ripartiamo, dico purtroppo, adesso lo capirete perché, da dove eravamo rimasti. Venerdì sera ci siamo salutati con quella lista, a mio avviso scandalosa, si può dire ogni tanto scandalosa, degli stipendi dei manager pubblici, dal direttore delle carceri al direttore dei monopoli, al capo di stato maggiore dell'aeronautica, della marina, dell'aviazione. Le riprenderemo nella seconda ora del programma. Perché? Perché nel frattempo, nel fine settimana, abbiamo scoperto, oltre al danno, la beffa, che i salari degli stipendi degli italiani normali, li abbiamo chiamati eroi con quella canzone di Caparezza, ma insomma degli italiani normali sono i più bassi a livello europeo, più bassi anche di quelli greci, con, presi a livello lordo. Siccome la nostra tassazione è molto alta, sapete bene che questo vale anche per il livello netto. Tra l'altro ci hanno scritto molti ascoltatori segnalando il fatto che non è vero che poi in Germania piuttosto che in Francia, fate salve le grandi città, la vita costi più che in Italia. Dicevo, oltre al danno la beffa, perché abbiamo una casta non solo di politici, non solo di top managers, ma anche e soprattutto di manager pubblici che ha stipendi che non hanno eguali nel resto del mondo. Il comandante dell'FBI, il capo dell'FBI prende un terzo del nostro capo della polizia Manganelli e via così. Però poi abbiamo gli salari della gente normale che sono i più bassi in Europa. Si capisce dov'è il travaso, se vogliamo metterla così. Parleremo anche dell'ICI e la Chiesa, perché è passato l'emendamento che prevede che la Chiesa paghi l'ICI, come a nostro avviso, giudizio del tutto personale, è giusto che sia, sugli immobili commerciali, non sulle scuole e sugli istituti in cui sostanzialmente gli istituti si adeguano a quello che è il settore pubblico, quindi accoglienza degli studenti disabili, applicazione del contratto collettivo per gli insegnanti, pubblicazione del bilancio, bilancio a somma zero, e quindi non ci deve essere un guadagno in queste scuole, e assenza di discriminazioni per l'ammissione. Cioè, se sono completamente paritarie in questo senso, cioè non discriminano tra figli di religiosi o no, cioè quello che vale per le scuole pubbliche, l'ICI verrà tolta. Per tutti gli altri esercizi commerciali, strutture ricettive, alberghiere e quant'altro, verrà pagata l'ICI, e voglio dire, massimo rispetto per la Chiesa Cattolica, ma ci mancherebbe che vi fosse un'esenzione incomprensibile per luoghi che non sono di culto in uno stato laico. Questo è l'altro tema, e poi subito per un'apertura al G20, visto che oggi c'è stata un'asta importante di bot in Italia, di titoli di Stato non bot in Italia, andremo a parlare dell'accoglienza che ha avuto il nostro paese, Città del Messico, nel vertice dei G20. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Vedo che c'è già che ci scrive, dice di aver vissuto a Colonia, a Berlino, a Francoforte, la vita costa molto meno che a Milano. Non ho elementi per confermarlo, però devo dire che abbiamo ricevuto diversi messaggi di persone che dicono non solo gli stipendi costano di più, ma la vita costa anche un po' meno. Beh, sul secondo aspetto, prima o poi anche questo costo della vita in Italia si abbasserà, o veramente l'evasione è una sacca così forte che permette poi di mantenere un costo della vita alto nei ristoranti, negli alberghi, nei servizi resi, oppure prima o poi anche il mondo del commercio prenderà atto che la festa è finita. Parlo della parte alta, il mondo del commercio basso medio ne ha già preso atto da che mo'. Benzina, nuovi record, abbiamo anche la benzina tra i più cari in Europa, non ci facciamo mancare nulla. Nuovo record nel weekend per Verde Diesel, Shell ha raggiunto 1,825 euro. Mentre il diesel sempre impianti Shell un picco di 1,765 euro anche negli impianti IP. Oro a 1778, il petrolio. Allora, per quello che riguarda il petrolio di New York, WTI, è a 109,15 dollari il barile. È un livello alto, stiamo tornando su prezzi alti nel petrolio. Veniamo alla parte europea della crisi. Angela Merkel, visto che oggi il Bundestag, non ho visto ancora un esito del voto, quindi immagino non sia ancora arrivato, ma il Bundestag voterà il secondo pacchetto di aiuti ad Atene, e la Merkel ha dovuto fare l'europeista convinta, cioè difendere i greci. Ha detto: attenzione, se Atene fallisse vi sarà un danno incalcolabile per la Germania. Certo, questo pacchetto di aiuti da 100, diciamo, sono varie tranche, ma insomma questo pacchetto di aiuti non è detto che abbia il successo, non è garantito che al 100% che abbia successo, ma per ora è l'unica soluzione che abbiamo. E la Merkel ha anche aggiunto: non vedo la necessità di aumentare la dotazione del fondo salva stati. Questo in merito ai 130 miliardi di aiuti che anche l'Europa darà alla Grecia. L'infrazione dell'Unione Europea contro l'Italia, ne ha parlato il nostro GR. Beh, insomma, almeno 102 discariche, di cui 3 di rifiuti pericolosi non conformi alla direttiva dell'Unione Europea, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, ma anche Puglia, Sardegna, ma anche Umbria, Piemonte, Molise, Marche, Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia. Mi sembra che manchi Basilicata, manca il Veneto, manca l'Alto Adige e poi poco altro, ci sono tutte, manca la Toscana forse, la Toscana non c'è, l'Umbria c'è, per cui si salva poco. Veniamo alla nostra asta. Dunque, lo spread questa mattina era sceso praticamente a 359 punti dopo l'asta di bot da 12 miliardi, che ha visto scendere il rendimento delle nostre obbligazioni, cioè quello che l'Italia deve offrire come rendimento per trovare dei compratori, è sceso all'1,202%. È ai minimi, il tasso era un bot a 2 anni, è ai minimi da aprile. BTP a 2 anni, ai minimi ad aprile dal 2,67%. Mentre, mi correggo, il bot all'1,202% è ai minimi dal settembre del 2010, come rendimento. Questa è una buonissima notizia. Poi nel pomeriggio lo spread è risalito a 370 punti base, ma insomma sembra, e ne parleremo subito in apertura, abbastanza calma la situazione sul fronte internazionale. Parleremo poi nella seconda ora anche della riforma del mercato del lavoro. La Presidente Confindustria Marcegaglia ha detto: il nostro obiettivo è aumentare l'occupazione. La leader della CGIL Camusso: vogliamo un accordo ma per una riforma seria. E poi gli sindacati chiedono una riduzione delle tasse sui salari, lo chiedono sia la UIL che la CISL, quindi sia Angeletti che Bonanni. Dicevamo dell'ICI alla Chiesa, approvata all'unanimità la modifica effettuata, quindi sono esenti dall'IMU solo le scuole che svolgono l'attività secondo modalità non commerciali, appunto non devono guadagnare, devono chiudere in pareggio, avere tutti i criteri che già ricordavo. E poi Monti ha ricordato che sull'IMU alla Chiesa c'era una preoccupazione diffusa, ma ha anche ricordato che la richiesta arrivava da una procedura, da una richiesta europea, cioè l'Europa non accettava il fatto che gli immobili della Chiesa, devo dire giustamente, insomma, quelli a uso commerciale fossero esenti da una tassa che colpisce gli altri. È un'agevolazione, non dico un aiuto di Stato, ma quasi. Sentiamo Monti. Mi fa piacere che sia stata apprezzata in un caso così significativo, io la ritenevo semplicemente doverosa. Mi sembra che la gran parte di loro condividano pienamente il motivo ispiratore e la formulazione sottoposta, e quindi non aggiungo altro se non soddisfazione che abbiamo nel cogliere che abbiamo effettivamente intercettato una preoccupazione che era diffusa e alla quale abbiamo cercato di dare formulazione, spero, convincente per tutti. E poi Monti ha chiarito appunto che la Commissione europea ha dato la sua assicurazione che la procedura di infrazione che va aperto contro l'Italia per questa agevolazione della Chiesa Cattolica in questo modo potrà essere chiusa. Devo dire che la Chiesa Cattolica va a risparmiare, perché se fosse andata avanti la procedura di infrazione il costo sarebbe stato più alto. Non possiamo dilungarci, ma bisognava applicarla anche in maniera retroattiva, per cui tutto sommato c'è un vantaggio anche per il Vaticano, dicevano tutte, che in questo momento ha qualche problemuccio al suo interno proprio sull'utilizzo anche dei fondi, dei soldi, perché una norma così permette di salvare buona parte delle 9.000 scuole cattoliche, 6.200 materne, 1.300 primarie, 1.200 secondarie, però stabilisce un principio, e cioè o tu hai le stesse regole del settore pubblico e quindi in tutto e per tutto non puoi discriminare su chi deve entrare, non può essere sulla base del credo, di altre cose, non ci può essere, ci deve essere il contratto collettivo per gli insegnanti, la pubblicazione del bilancio, devi chiudere in parità, o se no, se sei una scuola privata in senso stretto, cioè non sei parificata, paghi l'IMU. Tutte le altre scuole private che sono private in senso stretto pagheranno l'IMU, così come pagheranno l'IMU gli ospedali e le case di cura, le strutture ricettive alberghiere e anche diciamo praticamente le strutture con attività miste, conventi, chiese. La parte IMU si pagherà per la frazione ad uso commerciale, ed è anche questo, mi sembra, una norma di civiltà. Prima di passare agli scenari economici, al BTP e allo spread, abbiamo raccolto oggi un bel po' di cose sull'altra crisi, quella che noi abbiamo battezzato col massimo rispetto, ma con un po' anche di sarcasmo nei confronti delle notizie che leggiamo. Ma cos'è questa crisi? Perché questa crisi per alcuni paesi, per alcune persone, per alcuni soggetti e categorie sociali è una cosa diversa da quella che raccontiamo noi. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. La crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, i deputati cinesi, i membri del Congresso Nazionale del Popolo, sono i più ricchi al mondo come politici, superando di parecchio anche i colleghi americani. C'è il rapporto di Hurun, un gruppo con sede a Shanghai, secondo il quale i 70 membri più ricchi del Congresso cinese, Congresso Nazionale del Popolo, hanno raggiunto più ricchezza di tutti i 535 membri del Congresso americano, del Presidente del suo governo e dei 9 giudici della Corte Suprema americana. Praticamente il reddito medio dei 70 delegati più ricchi del Congresso Nazionale del Popolo è arrivato nel 2011 a 568 miliardi di yuan, mi sembra una cifra incredibile, 60 miliardi di euro, aumentando di 11 miliardi e mezzo rispetto all'anno precedente. I 660 più alti funzionari americani arrivano in totale, il totale che stiamo parlando è che no, non a testa, in totale arrivano a 7 miliardi e mezzo, quindi praticamente i 70 deputati, diremmo noi, delegati più ricchi del Congresso americano, del Congresso cinese, fanno 60 miliardi di euro di guadagno contro, cioè 90 miliardi di dollari contro i 7 miliardi e mezzo di tutti i Senato e Congresso deputati americani, e poi dicono che solo da noi c'è la casta. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Allora, io ho appena fatto la battuta, anche la casta dei politici cinesi non è male, ma poi la nostra batte tutti. Perché? Perché l'utilizzo di tessere via card o di telepass per gli spostamenti in autostrada dei consiglieri regionali pugliesi diventa un benefit, contenuto in una delle ultime norme e ordini di servizio riguardanti i consiglieri, varata dal servizio contabilità della Regione Puglia il 13 gennaio. E quindi anche le tessere via CA del Telepass per gli spostamenti in autostrada dei consiglieri regionali. Nel capitolo benefit dei consiglieri regionali pugliesi rientrano già i PC portatili, i rimborsi, le spese telefoniche, i parcheggi. Praticamente su una disponibilità di 100.000 euro, 71.000 euro sono destinati alla società Autostrade per consentire agli eletti pugliesi di utilizzare via CA o Telepass nei loro spostamenti. E quindi, insomma, questi soldi poi non è che la società Autostrade li regali, se li fa dare dal consiglio regionale. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E chiudiamo con invece un altro elemento notizia per chi la crisi la sente veramente. Il fenomeno All You Can Eat, ACE, scritto in inglese, cioè mangia quanto puoi allo stesso prezzo, presentato al Rimini Fiera. Insomma, in una ricerca presentata al Rimini Fiera, condotta da Smart Research, l'aumento delle formule di ristorazione All You Can Eat è impressionante. Il 48% degli italiani la trova coerente e il 95% ha trovato il conto conveniente o molto conveniente. Dall'All You Can Eat all'All You Can Spend, cioè al vertice del G20 di Città del Messico. 349-238-6666 per i vostri sms. Avete ragione, non ho dato la borsa. Chiedo Venia, meno 0,80% Milano, meno 0,50% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,60%, ne parliamo dopo. Telecom bene, più 3,30%, male Finmeccanica per la vicenda degli elicotteri indiani, meno 6,20%, Ubibanca meno 6%, Monte dei Paschi meno 5%, Popolare meno 4%, Banco Popolare meno 4%, Pop Milano meno 3,5%, Tenaris meno 3,35%, Città del Messico. Abbiamo letto di Città del Messico soprattutto per quello che riguarda le nostre misure. In realtà si è discusso di tutto, dell'aumento delle risorse del Fondo Monetario, delle risorse necessarie per mettere in sicurezza tutta l'Europa, non solo Italia e Spagna, e anche della ripresa del prezzo del petrolio e di un rischio frenata dell'economia. È a Città del Messico ancora Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Allora, vado rapido perché so che tu poi hai un aereo da prendere e non voglio che tu resti in una città così inquinata. È così inquinata ancora Città del Messico? È inquinata, sto guardando fuori dalla mia finestra e a malapena, sono al 36esimo piano, a malapena vedo le strade sotto di me. Allora, dicevamo, noi ce ne siamo occupati soprattutto per i commenti su Italia e Spagna, Italia ma anche Spagna in questi giorni. Oggi l'asta è andata bene, l'asta dei BTP e l'asta dei BTP a due anni, i BOT molto bene, i BTP a due anni sono scesi al minimi da aprile come rendimento, quindi prima del grosso attacco sui debito italiano al 2,67%, i BOT sono scesi addirittura ai minimi come rendimento dal settembre 2010 all'1,2%. Abbiamo collocato oltre 12 miliardi, nel pomeriggio poi lo spread è un po' risalito. Ma al di là dell'Italia, poi lo useremo in chiosa, sugli stanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, sul salvataggio dell'intera Europa e su questo aumento del prezzo del petrolio, che è emerso da questo G20, che ormai è il G7, G8 allargato ai paesi emergenti? Beh, non dimentichiamo che l'ultima volta che il G20 si era trovato era i primi di novembre a Cannes e la situazione era ben diversa da quella attuale. Eravamo quasi sull'orlo di un tracollo catastrofico dei mercati, l'Italia ci ricordiamo in che situazione era, tutta la zona euro era piuttosto traballante, adesso un minimo di stabilità sui mercati è stata ricostituita, l'economia non in tutta l'Europa ma sicuramente negli Stati Uniti e altrove dà qualche segno di ripresa, come ha detto ieri anche il Presidente della Banca Centrale Europea Draghi, c'è l'incognita petrolio che tu hai già sottolineato. C'è questo problema che le riforme in alcuni paesi sono state fatte, la situazione sta migliorando, Italia, Spagna, eccetera, però c'è la preoccupazione di creare i cosiddetti firewall, cioè le barriere contro eventuale contagio, che siano sufficientemente forti. Ora, gli altri paesi del G20 hanno detto agli europei: prima vogliamo vedere che mettiate voi i soldi sul tavolo, il problema è anzitutto vostro. Quindi prima, cioè nel mese di marzo, gli europei dovranno decidere cosa fare dei loro fondi salva stati, se aumentarli dagli attuali 500 miliardi di dollari a 750. Dopodiché gli altri sono disponibili a metterci un po' di soldi anche loro attraverso il fondo monetario. Il Giappone ha già dato le aperture, i grandi paesi emergenti, la Cina, il Brasile, eccetera, anche loro. Però diciamo, vogliono vedere l'impegno europeo, certo, nel campo dell'Europa, che in fondo è l'epicentro di questa situazione, è anche responsabile. E del resto alcuni dei paesi emergenti si chiedono perché dei paesi ricchi con un alto livello di reddito pro capite debbano essere salvati da dei paesi dove certo. Non hanno tutti i torti, cioè adesso non hanno tutti i torti, insomma, che la Cina, l'India vengono a salvare, diciamo, gli spagnoli, italiani, ma anche, se vogliamo, i francesi, no. Allora, capisco il punto di vista di chi appena si sta orora arricchendo, non ha generato debito per aver vissuto al di sopra delle sue possibilità, come nel caso nostro, ma anche greco. La Spagna è un caso un po' diverso. E veniamo invece, il plauso ce lo confermi comunque, soprattutto il ministro dell'economia americano, il segretario del tesoro Timothy Geithner, il plauso su Italia e Spagna, no? Ma diciamo che questo atteggiamento è stato abbastanza generalizzato. Il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde adesso ha detto la stessa cosa, e vari altri esponenti del G20 hanno notato che in effetti dei progressi anche molto significativi sono stati fatti. Quindi direi che da questo punto di vista c'è stato un riconoscimento del G20 che in Italia qualcosa si è mosso, sia sull'aggiustamento dei conti pubblici e sia finalmente su qualche misura che dovrebbe rilanciare un po' la crescita. Ovviamente la situazione resta abbastanza vulnerabile, sottolinea il comunicato G20, però non c'è dubbio che appunto da novembre a oggi dei passi avanti sono stati fatti anche, direi. Allora, c'è un SMS al 349-238-6666 che è ricorrente, nel senso che è una cosa che chiedono in molti. Dicono: ma come? A novembre andava tutto male, adesso invece che abbiamo certificato un 2012 in recessione per l'Italia, ma non solo, le cose vanno meglio. Allora, Alessandro, qui bisogna chiarire che spesso i mercati, la finanza, lo spread, l'andamento dei rendimenti anticipa il ciclo economico, cioè è chiaro che la situazione nell'economia reale è peggio adesso di un anno fa, su questo non ci sono dubbi, però qui stiamo guardando le prospettive, cioè si uscirà da questo cavolo di recessione a fine 2012 oppure ce la becchiamo anche nel 2013? Credo che stiano guardando i mercati a due cose: un po' l'aspettativa che a un certo punto le prospettive migliorino. Ieri il commissario Olli Rehn ha detto in Europa un po' di ripresa si dovrebbe vedere dalla seconda metà di quest'anno. Appunto è molto diseguale, la Germania cresce o comunque non cala, altri paesi soprattutto nel sud Europa vanno peggio, ma credo che i mercati riconoscano, non solo guardino avanti, ma anche riconoscano un po' quello che è stato fatto in questi ultimi mesi. Cioè a novembre c'era la sensazione che si stesse andando un po' alla deriva, che nessuna azione fosse presa, soprattutto sul fronte del risanamento dei conti pubblici. Nel frattempo invece sono state fatte delle cose, direi, piuttosto significative, quindi credo che sia una risposta anche a questa azione molto determinata che è stata presa sia dal governo italiano che, come hai sottolineato, anche da quello spagnolo, che appena insediato ha varato una riforma del mercato del lavoro incredibile, che non sarà ottimale ma comunque molto importante. Beh, però al vantaggio di anche questo riconoscimento che qualcosa si sta facendo. Sì, la riforma spagnola, lo diciamo spesso, ha il vantaggio che rende meno oneroso per le imprese licenziare, nel senso che riduci di molto le settimane che vengono date al dipendente che perde il posto di lavoro, però obbliga le imprese a contribuire a questo e quindi rende anche meno conveniente licenziare, cioè voglio dire che ti liberi di una persona veramente quando c'è un problema, non puoi farlo come ristrutturazione aziendale tout court, perché contribuisci anche tu a quello che prende come accordo per il mancato per la perdita del posto di lavoro. Comunque, ultimo aspetto e poi ti saluto, oro e oro mica tanto, petrolio soprattutto e materie prime, perché qua insomma stiamo facendo i conti con un petrolio $90-100 al barile, parlo del WTI americano. Adesso è una settimana che viaggia sopra i 105, oggi 109. Sì, questo è un problema che evidentemente il G20 ha identificato, siccome però nel G20 ci sono anche diversi paesi produttori di petrolio, l'Arabia Saudita, la Russia, il Canada, l'Indonesia, adesso anche il Brasile, il Messico, che tra l'altro ha la presidenza di turno, e gli altri che sono consumatori hanno chiesto a questi paesi qualche rassicurazione e apparentemente l'hanno ottenuta, cioè questi paesi produttori che fanno parte del G20 hanno detto che faranno il possibile per cercare di stabilizzare il prezzo nei prossimi mesi e comunque fare in modo che non raggiunga dei livelli tali che possano frenare quel po' di ripresa economica che c'è in giro per il mondo. Adesso vedremo se lo faranno. Comunque sappiamo che in passato molto spesso l'Arabia Saudita ha reagito in modo abbastanza deciso, sì, aumentando la produzione, ci sono stati dei picchi del petrolio aumentando la produzione, sì, oddio, i picchi li abbiamo visti a 140, però insomma speriamo che anche l'Arabia Saudita capisca. In questo caso direi che la cosa è provocata, cioè questi balzi sono provocati soprattutto da tensioni geopolitiche che ovviamente non è il G20 che può risolvere, perché c'è tutto il problema Iran, eccetera. Però indubbiamente la rassicurazione che questi paesi produttori che fanno parte del G20 siano pronti ad aumentare la produzione dovrebbe dare un mano di rassicurazione almeno psicologica. Poi sappiamo che però il prezzo del petrolio è un po' sempre una variabile impazzita. Grazie, secondo me ti lascio lo smog di Città del Messico che rende Milano una specie di prateria alpina e rispondo invece a qualche sms prima del meteo e poi della borsa sull'ICI IMU alla Chiesa Cattolica. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Allora, scrivono alcuni ascoltatori, ma secondo voi, visto che hanno i figli nelle scuole cattoliche private, non è che in questo modo lo caricheranno le scuole private, anche non cattoliche, cioè in generale lo caricheranno a noi? Sì, questo può essere, nel senso che può capitare in qualunque struttura, dopodiché è sempre un rischio, perché in questo periodo forse aumentare la retta scolastica non è il massimo, ti mette forse fuori dal mercato, però è chiaro che questo avviene per tante cose, avviene anche in altre strutture, avviene nel mondo del petrolio, nel mondo dell'assicurazione, nel mondo anche dove dovrebbe esserci più concorrenza, a meno che non vi sia una clausola, ma non può esservi in questo caso, di tenere le rette fisse. Può essere, è inutile girarci attorno, che poi l'eventuale IMU venga caricata sulla retta. Però poi anche la scuola privata sta sul mercato e quindi poi deve prendersi lei il rischio di avere meno sottoscrizioni. E poi invece scrive un ascoltatore, sempre in tema della scuola cattolica, invece, Barisoni, invece di dire stupidate sul Vaticano, pensa all'opera e ai soldi che fanno risparmiare lo Stato le scuole cattoliche. Ragiona. No, grazie per l'invito, perché vale sempre. Però mi scusi, perché fanno risparmiare i soldi lo Stato? Cioè, a me interessa, come cittadino che paga tutte le tasse, che gli asili, le scuole materne statali non debbono più chiedere al sottoscritto e a tutti i genitori la carta igienica, le penne, la carta per disegnare che manco in Burkina Faso, no? Cioè, questo io vorrei una scuola statale che rispecchiasse la pressione fiscale che ho in busta paga io e tutti gli italiani che pagano le tasse. A me il fatto che il Vaticano faccia risparmiare soldi allo Stato è perché? Magari con la sanità convenzionata? Con San Raffaele? :17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che il tema dell'IMU alla Chiesa. Allora, vedo che lei non. Che mi stupisco che lei non capisca cosa risparmia lo Stato italiano. Attenzione, cioè, se iniziamo a dire che lo Stato risparmia perché anch'io sono genitore, ci mancherebbe, perché mandiamo, perché alcuni mandano i bambini alle private, allora chiudiamo lo Stato. Cioè, non è che lo Stato risparmia perché io vado in clinica perché penso che la clinica abbia un trattamento diverso, mando mio figlio alla privata perché mi piacciono gli insegnanti, mi piace la scuola, cioè mi garantisce altre cose, alcuni ritengono che garantisca anche un servizio migliore, ci mancherebbe. Ma lo Stato ha l'obbligo, visto che siamo tutti contribuenti, perlomeno dovremmo esserlo, alcuni fanno i furbi, ma ha l'obbligo di avere il posto per mio figlio. Per cui se non ce l'ha, a quel punto costruiamo un asilo e assumiamo altri insegnanti, magari regolarizziamo i precari. Che cosa vuol dire? Se no, sulla base di questo principio, ogni volta che uno manda o va in una clinica privata o manda il figlio in una scuola privata, sta facendo risparmiare soldi lo Stato. A questo punto facesse anche richiesta di un credito d'imposta, ma non vuol dire nulla questo ragionamento. Uno usa il privato e fa bene a usarlo se lo ritiene giusto, usa il privato perché ritiene che il privato sia meglio dello Stato, ma è un privato. Cioè, se io prendo il taxi è perché ritengo che l'autobus funzioni male, ma non posso dire che lo Stato deve essere grato per chi usa i taxi perché così gli autobus sono più vuoti. Ma che ragionamento è? Poi c'è quello che scrive, Barisoni si vergogni, se questo è il suo pensiero vada a fare trasmissioni a Radio Sherwood, non alla radio di Confindustria. Caro Alessio di Vicenza, lei ha un'idea molto molto particolare, purtroppo non è l'unico in questo paese, dell'informazione e del rapporto informazione-editore. La Confindustria è chiaramente l'azionista di maggioranza del gruppo Sole 24 Ore, però io faccio giornalista, non faccio l'azionista. Chiaro? Borsa. Sempre con sta Confindustria. E allora non lo capirete mai che esistono anche quelli che, diciamo, esprimono le loro idee manifestandole come libere opinioni. Vabbè, vabbè. C'è qualcuno che tende a essere avere dei transfert biografici, magari lei parla della sua esperienza e quindi pensa che anch'io mi muova così sulla base del paron. Ciao Condina, buonasera, Radio Corriere Sole 24 Ore, come stai? Bene, buonasera a voi. Allora, meno 1,1% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,22% Francoforte, meno 0,30% Londra, più 0,17% l'America. Milano è la più debole oggi, pesano i bancari. Ti posso chiedere come mai, nonostante l'asta di BOT e BTP sia andata bene? Beh, oggi diciamo che ci sono essenzialmente due fattori che hanno giocato contro i titoli bancari. Il primo, segnalano gli operatori, è l'andamento deludente all'interno di tutto il settore europeo dei bancari, che è arrivato a perdere 2 punti percentuali. Il secondo è che da oggi ufficialmente finiva il divieto di vendita allo scoperto, che era stato utilizzato un po' come rete di protezione da parte della Consob a Piazza Affari. Diciamo, il combinato di questi due fattori ha spinto a ribasso, insomma, le banche italiane, anche se la peggiore, già che ci siamo possiamo già dirlo, è UbiBanca, che perde il 6,2%. Dopo che il suo amministratore delegato ha lanciato un allarme dividendo, ha detto che non saprà se la banca riuscirà a staccare la cedola quest'anno. Ancora male tutti i finanziari, devo dire, in Europa e non solo in Italia. Da noi UbiBanca meno 6,20, Monte dei Paschi meno 4,30, Banco Popolare meno 4,14, Popolare di Milano meno 3,70, Unicredit meno 2,30. E poi sulle banche direi che possiamo chiudere con Generali meno 1% e poco altro. Intesa San Paolo perde solo lo 0,40% e la Popolare Emilia Romagna guadagna lo 0,90%. Lì si sta creando una lista dentro la Popolare Emilia Romagna, no? Sì, sì, questa mattina c'è stata questa comunicazione. Dal punto di vista borsistico è un caso un po' a parte la Popolare Emilia Romagna, anche perché oggi ha guadagnato leggermente, anche perché nei mesi scorsi, anche nell'ultimo mese, quando principalmente tutti gli istituti hanno recuperato terreno, era rimasta un po' ferma, e quindi oggi fondamentalmente alcuni operatori hanno fatto quello che si chiama il cosiddetto switch, si sono concentrati su questo titolo mentre tutti gli altri perdevano. Allora, Finmeccanica, qui ha fatto tempo a festeggiare per la commessa israeliana che gli è tornata l'ammazzata dall'India, mi sembra, ma non è tanto la commessa persa per il caccia indiano, che lì ha perso tutta l'Europa, Eurofighter, a favore di un caccia che prima non voleva nessuno, il francese Rafale. Anche i francesi sono bravi a fare PR. Finmeccanica meno 6,40%, Qui sono gli elicotteri indiani, giusto? Sì, una commessa molto grossa da 1,5 miliardi, ricordiamo, era stata firmata nel 2010 da Agusta, quando ai vertici di Finmeccanica c'era Giuseppe Orsi, e comunque praticamente secondo il Messaggero ci sarebbe in India un'indagine su questa commessa per una vicenda di corruzione, per la vendita di 12 elicotteri. Qui ovviamente il condizionale è d'obbligo, però intanto il titolo in borsa ha pagato duramente. Allora, CEO, UbiBanca, vabbè, dicevi anche tu del dividendo, Telecom, parliamo anche di titoli positivi, però facciamolo dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora CEO, dicevamo Telecom Italia più 2,77, in pregilo più 1,80 dopo l'uscita dei Benetton, e a questo punto Gavio è il primo socio, no? Su sì, Gavio è il primo socio indirettamente, vabbè, ormai direttamente. In sì, pregilo perché... vuol dire costruzioni, qui stiamo parlando del colosso delle costruzioni italiane, in pregilo, anche sì, Gavio e Salini. Certo. Il primo general contractor italiano, sì, adesso ovviamente Gavio è il primo azionista col 30%, tale infatti era la quota di in pregilo detenuta da Igli, che era la scatola di controllo in cui convivono appunto Gavio, Atlantia, da cui Gavio ha rilevato la quota, e i Ligresti, che hanno già ceduto da tempo la quota a Gavio. L'altro azionista forte adesso sono i Salini, che detengono il 20%. Oggi il mercato, date alcune dichiarazioni, diciamo tra virgolette, agguerrite dei Salini, che vorrebbero prendere il controllo della società, e il mercato scommette nella battaglia. Battaglia, vede il sangue per il controllo, e vabbè, e su questo si eccita. Allora, chiudiamo con Premafin, mamma mia, non c'è pace su Premafin. Che è successo oggi? Qui la Premafin è la controllante del gruppo Fondiaria SAI, quindi famiglia Ligresti. Sì, sembrerebbe prendere forma l'ipotesi di un convertendo, cioè diciamo si conclude la fusione Unipol Fonsai Premafin, e poi buona parte dei debiti, diciamo le banche creditrici vengono soddisfatte sottoscrivendo un convertendo, che poi in futuro potranno decidere insomma se entrare nel capitale di Premafin oppure se diciamo prendersi soldi. Detto molto... Ecco, nel frattempo ti interrompo perché vedo che l'euro sta risalendo, perché il Bundestag, quindi il Parlamento tedesco, ha... La Camera tedesca elettiva ha dato il via libera al pacchetto di aiuti alla Grecia, e quindi anche la Germania alla fine si è allineata dopo l'appello di Angela Merkel oggi. Questo dovrebbe tranquillizzare un po' di più i mercati. Grazie a Ciao Condi, Radio Corri, Sole 24 Ore. Io vi do anche i migliori. Perché ve li do? Perché il migliore e il peggiore non è il gruppo Premafin, ma è Neurosoft più 20%, poi Investimento e Sviluppo più 19%. Ciccolella più 4,40, peggiori PMS meno 8,45, Industria e Innovazione meno 10,40, Credito Valtellinese meno 6,65, Finmeccanica meno 6,41%, Nokia meno 6,34%. Allora andiamo, come promesso, anche agli ultimi aggiornamenti sugli vari emendamenti di carattere fiscale al disegno di legge che deve essere votato in Parlamento. Soprattutto chiariamo cosa ha deciso su ICI, o meglio IMU, per gli immobili della Chiesa Cattolica. Salvatore Padula, salvaci tu. Buonasera. Visto che parliamo di Chiesa Cattolica. No, a parte gli scherzi, è passato l'emendamento che oggi anticipavano la maggior parte dei giornali, e cioè quello in cui la Chiesa Cattolica pagherà per gli immobili commerciali l'IMU. Con le scuole però come verranno trattate? Sì, è passato l'emendamento, e mi sembra di capire, leggendo le agenzie, è passata anche la linea per cui le scuole saranno escluse dall'applicazione di questo tributo dell'ICI e poi IMU, a condizione che rispettino alcune caratteristiche, per esempio che siano scuole paritarie, riconosciute, per esempio che non abbiano, diciamo, vincoli particolari relativi all'ammissione alla scuola stessa, e direi la cosa più importante è che devono essere istituzioni che non abbiano una finalità di un guadagno di tipo commerciale. Cioè devono chiudere, come si direbbe per un ONG o per un onlus, devono chiudere in pareggio ogni anno? Devono chiudere in pareggio, e se hanno come dire dei margini, degli utili, li devono reinvestire nell'attività scolastica barra didattica. Beh, questa mi sembra un'operazione di buon senso, lo dico perché appunto non è che si può con un colpo di penna immaginare che tutte le 9.000 scuole cattoliche, ci sono 14.000 le paritarie in Italia, di cui 9.000 cattoliche, siano solo, diciamo, a fine di lucro. E su questo c'erano state delle obiezioni anche, a mio avviso, non prive di senso. Però si dice, se tu fai le stesse cose che fa il pubblico, quindi accetti tutti, non puoi mettere discrimini per la missione, non puoi applichi il contratto collettivo per gli insegnanti, chiudi in pareggio, quindi vuol dire reinvesti, non fai guadagnare l'istituto, né trasferisci questi soldi, diciamo, alla congregazione, se sei salesiani ai salesiani, se sei gesuiti ai gesuiti, a quel punto non paghi l'IMU. Per tutti gli altri edifici, cioè ospedali, cliniche, bed and breakfast, case di cura, strutture ricettive alberghiere? Qui deve valere la regola generale, che adesso mi rendo conto non è semplicissima da interpretare, infatti ieri lo stesso Passera ci ha detto che, insomma, fatta la norma generale, adesso poi bisognerà calarla nelle singole realtà, però la regola generale è che sono escluse dall'applicazione dell'IMU-ICI tutte le attività che non hanno una finalità commerciale, quindi caso per caso bisognerà valutare se quel tipo di attività ha o meno una finalità, diciamo, strettamente commerciale. Tu l'hai detto, insomma, mi sembra un approccio... No, anche perché c'era una procedura di infrazione aperta da Bruxelles, oltre che Monti aver dato anche una prova di maggiore senso dello Stato, diciamo, del governo precedente, possiamo in generale in questo caso specifico, perché c'era anche un governo tecnico, ma c'è una procedura di infrazione aperta da Bruxelles, per cui noi andavamo l'Italia, i contribuenti italiani avrebbero pagato caro questo esentare, diciamo... Gli immobili commerciali della Chiesa dall'ICI, che Bruxelles, che ha un atteggiamento laico, dice no, perché la Chiesa Cattolica può essere esentata e il cittadino Rossi no, se ha un bed and breakfast? Sì, tra l'altro, guarda, lo stesso principio si deve applicare, si applicherà, diciamo, non solo agli immobili della Chiesa, ma anche a tutti gli immobili delle organizzazioni non profit, del volontariato, delle onlus, quindi, diciamo, parliamo di chiesa, ma in realtà parliamo di una realtà molto molto più ampia che appunto ingloba anche il non profit, per il quale varranno le stesse regole, cioè niente ICI sugli immobili che hanno una finalità, diciamo, legata di culto, proprio, esatto, cioè, sì, di culto, oppure finalizzata al volontariato. Ma ci mancherebbe che lo pagasse l'IMU. E invece ICI sugli immobili che hanno una finalità commerciale, seppur ricondotta nell'ambito di quella. Di sì, quella, vabbè, ho capito, però se tu sei una clinica, un ospedale, un albergo, una struttura ricettiva, anche se sei riconducibile alla Chiesa, ma paghi normalmente come un altro, fai concorrenza sleale, dai, insomma, diciamola tutta. Certo. E su questo c'era la procedura di infrazione europea. Grazie a Salvatore Padura. Adesso andiamo sul GR, voglio dare una risposta collettiva. Mi fanno piacere gli sms di complimenti, leggo più volentieri, diciamo più volentieri no, ma insomma leggo le provocazioni perché accetto il confronto, ci mancherebbe, lo dico agli ascoltatori, a chi dice poteva dire la parola stecca per la vittoria del Rafal francese in India, caccia francese. Non lo so, ho detto solo che anche i francesi sono molto bravi nelle pubbliche relazioni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo ancora molti messaggi sull'IMU ai beni della Chiesa a fini commerciali, non possiamo continuare a parlarne, ha ragione però chi dice... Insomma, hanno reintrodotto l'IMU sulla prima casa e che notoriamente non ha finalità commerciale, cioè è veramente un avere il minimo delle volte dei risparmi che si riesce ad ottenere, e, insomma, almeno un po' di decenza. Molti scrivono, infatti, anche casa mia non ha scopi commerciali, quindi l'IMU non la pago. Vabbè, andiamo avanti, e invece io trovo che comunque, ripeto, l'accordo raggiunto, vista anche la procedura di infrazione che aveva aperto l'Europa contro lo Stato italiano per gli aiuti alla Chiesa, l'esenzione dell'ICI, IMU, sia un buon accordo, tutto sommato. Andiamo avanti e riprendiamo purtroppo da dove ci siamo lasciati venerdì. ripeto, purtroppo, perché? Perché venerdì commentavamo lo scandalo delle retribuzioni dei manager di Stato, no? E tra l'altro oggi leggo che un detenuto è evaso dal carcere di Brescia nel fine settimana perché ci sono pochissimi secondini o polizia penitenziaria, per essere più corretti, ne erano solo 7 in servizio, sono sotto organico, hanno metà dell'organico, però nel frattempo abbiamo anche visto che Ionta, che è il direttore delle carceri italiane, vorrei trovarlo ma adesso mi sfugge, percepisce uno stipendio intorno ai 340.000 euro, adesso lo ritrovo e ve lo do in maniera più corretta. Dicevo, venerdì ci siamo occupati degli stipendi dei top manager, dei manager, che poi erano solo le dichiarazioni per quelli in carico, non sappiamo quanto siano i redditi cumulati. E allora, appunto, scusatemi se me la prendo, ma il capo di Stato Maggiore, Esercito, Marina e Aeronautica, i tre capi di Stato Maggiore, 480-460.000 euro lordi, il direttore dei Monopoli di Stato, 480.000 euro lordi per i Monopoli di Stato, e poi ancora tutto insieme di stipendi obiettivamente, so, il capo di gabinetto che prende 400.000 euro, un capo di gabinetto, capito? Ma insomma, il direttore generale del Corpo Forestale 360.000 euro, per non parlare poi dei direttori, dei presidenti dell'Authorities, anche, devo dire, di... Eccolo qua, Franco Ionta, ho sbagliato per difetto, capo dipartimento amministrazione penitenziaria, 500.000 euro, 543.000 euro. Magari con parte di questi soldi si possono anche assumere, si può assumere anche qualche poliziotto penitenziario in più. So, così è una proposta, populista e demagogica. Ma siamo anche il paese dove la tassazione è ai massimi sulle imprese, sul reddito del lavoro, e dove gli stipendi sono ai minimi. E quindi torna prepotentemente Caparezza. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Eh sì, gli eroi, abbiamo augurato un buon fine settimana agli eroi, e lo dico con massimo rispetto, che non è chi guadagna cifre, a mio avviso, fuori da ogni grazia di Dio, anche paragonate al resto d'Europa e del mondo, no? Avete visto i raffronti tra il capo dell'FBI e il nostro Manganelli e via così, no? Secondo lei si vergogna questa gente, chiede un ascoltatore, non me ne frega nulla, nel senso che vanno messi i tetti agli stipendi, che uno si vergogna o non si vergogna, la vergogna è un sentimento privato, lo... la confideranno alle mogli, ai figli, agli amanti, non me ne frega nulla. Uno per legge non può guadagnare quelle cifre, fine. E poi se li ruba il settore privato, e li rubasse il settore privato, cosa possiamo, il settore privato dà gli stipendi che vuole, poi ci sono gli azionisti e il rischio d'impresa, ma insomma gli stipendi degli italiani lordi, 48.000 euro in Lussemburgo, uno dice vabbè, Lussemburgo è Lussemburgo, Paesi Bassi 44.000 euro, Germania 41.000 euro, dice la Germania è la Germania. Poi però anche il Belgio 40.000 euro, l'Irlanda 39.000 euro lordi, Finlandia 39.000 euro lordi, Francia 33.000 euro lordi, Austria 33.000 euro lordi, Grecia 29.000 euro lordi, Spagna 26.000 euro lordi, ma quando arriva l'Italia? Cipro 24.000 euro lordi, ecco l'Italia, media delle retribuzioni in Italia 23.000 euro lordi. Dopo l'Italia c'è il Portogallo 17.000 euro lordi, Slovenia 16.000 euro lordi, Malta 16.000 e Slovacchia 10.000 euro lordi. Quindi, se ho ben capito, abbiamo la benzina tra le più alte, la tassazione sul reddito del lavoro tra i più alti, l'evasione sulle più tra i più alte, la più alta, dopo la Grecia, i manager di Stato tra i più alti come stipendi, la burocrazia tra le più alte come inefficienza, la pubblica amministrazione tra le più alte come costi e sprechi, the best place where to live. Mamma mia. Professor Vavassori, buonasera. Buonasera. Insegna organizzazione e gestione delle risorse umane all'Università di Bergamo, ma soprattutto è l'amministratore delegato di ODM Consulting, quella che fa è anni che lei è nostro ospite. perché ogni tre mesi, lo so, ognuno ha le sue croci, dico a lei, ODM Consulting pubblica ogni tre mesi, anche su Sole 24, il rapporto sulle retribuzioni. Mi spiega, per citare un vecchio film, com'è che siamo scivolati così in basso? No, noi siamo posizionati così al decimo posto, credo, da parecchi anni. I dati a cui fa riferimento sono quelli del 2009, quindi non sono i dati del 2011 che noi abbiamo, ma che non sono sostanzialmente cambiati. Vorrei fare una precisazione sulla Grecia. La Grecia ha 6.000 euro più di noi in media. Bisogna dire una cosa: in Grecia, intanto, nel 2009, non c'era e non c'è nemmeno oggi la manifattura, non ci sono gli operai in Grecia. Prevalentemente questo dato è rappresentato dai dipendenti pubblici. E in Grecia è evidente più che da noi come i dipendenti pubblici, per molti versi, hanno una composizione interna che tende ad alzare il salario, tende a far lievitare il salario medio. In effetti, come dicevate prima, noi abbiamo, il nostro problema non è tanto, non sono i 500.000 euro di un capo di Stato maggiore, ma sono i 400, i 300, i 350, i 250 dei secondi e dei terzi livelli. A me anche che un capo maggiore pigli 480.000 euro non mi sta bene. Dopodiché lei ha ragione che lo scandalo, oltre a quello dei top, è anche di tutti questi, no, i consiglieri della Consob, 320.000 euro all'anno, il direttore generale dell'INPS 320.000 euro, il dipendente della GCOM 325.000 euro. Allora, questo era per spiegarle perché 29.000 euro in Grecia. Cioè, in Grecia questo fenomeno è un fenomeno presente probabilmente da molti anni. Ma infatti si chiama Grecia e ormai infatti, è diventato un attributo quasi più che un sostantivo. E non vorrei usare sempre gli ultimi con buona pace e senza offese per i greci come benchmark, magari proviamo a usare i primi. Anche perché molti ci hanno scritto che in Germania, e ce lo scrivono molti ascoltatori, la vita non costa più che a Milano. Per cui attenzione, oltre al danno c'è anche la beffa. Ma insomma, vorrei capire una cosa. In questa media entrano anche però i manager pubblici, i top? Certamente, questo è il problema, certo, è certo che entrano. Perfetto. E questa è la media, diciamo, più generale, la media di lussana memoria, che mette insieme tutti. Allora, i 40.000 euro della Germania in realtà comprendono gli operai che hanno 38.000 euro, come il grande dirigente di azienda pubblica che prende 3 milioni. La differenza è che i 38.000 euro dell'operaio tedesco diventano, con una tassazione media del 37%, quindi non è una tassazione bassa, diventano 24-25.000 euro, vale a dire 2.000 euro netti al mese. I nostri 22.000 euro di un operaio diventano 16.000 euro con una tassazione media del 25%, perché lo scaglione è basso, e sono 1.300 euro al mese. Questa è la differenza. Il costo della vita in Germania è pressoché uguale a quello italiano, se non addirittura inferiore. Le case, ad esempio, gli affitti costano meno a Berlino, a Stoccarda, a Francoforte costano meno che non a Milano o che a Roma, insomma. Questo è un dato. Allora, sul costo della vita può poco lo Stato, ci mancherebbe. Dovrebbe in un paese normale abbassarsi una volta che vai in stagnazione economica e recessione, cioè quando l'economia non tira, la domanda interna non tira, si abbassano i consumi, si abbassano anche i prezzi. Da noi però c'è un piccolo effetto distorcente che si chiama record dell'evasione fiscale, cioè 200.000 euro evasi, cioè che scompaiono, 100.000 euro evasi ogni anno, fanno sì che poi in alcune situazioni i prezzi restino altissimi. Dopo però il traffico, professor Vassori, vorrei capire anche la dinamica, perché lei ha detto, insomma, è da un po' di anni che siamo decimi, a me sembra che siamo anche dopo i decimi, però vorrei capire la dinamica. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:20 minuti. Allora, fermo restando, lo abbiamo detto anche venerdì, che Monti di questo non ha nessuna responsabilità, anzi ha il merito di avere pubblicato per la prima volta in un'operazione di trasparenza, chiesto a tutti i capi di Stato Maggiore, di Dipartimento, i presidenti, di fornire quanto guadagnano. Nessun governo prima ci aveva pensato, ok? Quindi date merito a Monti di questo, così come ho trovato anche intelligente la pubblicazione del lavoro fatto nei primi 100 giorni. Ci sono molte cose che ancora vanno fatte sugli sprechi nella pubblica amministrazione, però 43 milioni risparmiati come presidenza del Consiglio, 43 milioni risparmiati in 100 giorni. E sapete come si fa a risparmiare 43 milioni per la presidenza del Consiglio in 100 giorni? Si usano meno aerei di Stato, eh? E infatti sono calati del 92% con un risparmio di 23 milioni e mezzo prima di euro. Prima si usavano un pochino di più di voli di Stato. Lo dico anche a chi si firma Silvio Forever, e dice: Barisoni, vai in Corea, quello è il tuo posto. Vorrei che specificasse quale, cioè Pyongyang o Seoul, perché insomma un pochino mi cambierebbe la vita. Però. Vavassori, la dinamica qual è? Siamo fermi lì? Cioè lo scarto è fermo lì? Considerato nell'ultimo rapporto che esce appunto domani, dopodomani, verrà pubblicato sul Sole, è considerato gli ultimi 5 anni. E abbiamo visto che negli ultimi 5 anni in realtà c'è stato un decremento netto di circa da 4 punti a un punto e mezzo, cioè in meno. Cioè le retribuzioni di fatto al netto dell'inflazione sono diminuite da 4 punti e mezzo a 6 punti in alcuni casi. Però. Questa è la dinamica, purtroppo, certo, c'è il biennio terribile del 2008-2009 dentro questo quinquennio, però il 2011 purtroppo rispetto al 2010 non sta dando ancora dei segnali interessanti, anche se abbiamo visto qualche piccola variazione positiva, ad esempio nel caso degli operai. Perché nel caso degli operai? Perché gli operai, voglio dire, nel 2008-2009 sono usciti, sono andati in cassa integrazione, eccetera, ci sono stati fenomeni molto pesanti. Oggi noi abbiamo una inversione di tendenza, la manifattura buona sta riprendendo quota e quindi gli operai che lavorano nella manifattura stanno riprendendo qualche punto in più. Non va così bene per gli impiegati e per i quadri, va discretamente bene per i dirigenti, anche i dirigenti hanno fatto una grande cura dimagrante. Soprattutto nel 2009-2010 sono usciti moltissimi dirigenti dalle aziende e il prezzo medio, diciamo, dei dirigenti si è abbassato, perché i dirigenti che costavano molto le aziende hanno preferito, diciamo, metterli fuori oppure magari anche riprenderli poi, per poi riprenderli come consulenti, ma comunque con costi più bassi, e hanno valorizzato un po' più di giovani dirigenti che costano un pochino meno. Questo è un po' il fenomeno. Sì, allora, hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono: attenzione, che poi oltre al danno la beffa, perché questi mega stipendi diventeranno mega pensioni. Avete ragione, e quindi continueremo a pagare tutte queste persone per anni, per non per l'incarico svolto, che va bene, ma per l'enorme e a mio avviso ingiustificato stipendio che hanno ricevuto. Ancora hanno ragione anche gli imprenditori che scrivono e dicono: attenzione, il salario lordo, cioè il salario netto di un operaio italiano è molto più basso, ma il costo aziendale è quasi identico. E su questo, Vavassori, c'è un altro problema, il mitico famoso cuneo fiscale, cioè quello che poi costa un dipendente a un'impresa italiana è un valore alto, perché ci sono i contributi, c'è tutto il resto. È rimasto molto alto, e anzi in questi ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, tende a crescere. Mm-hmm. E noi ci aspettavamo, come molti insomma si aspettavano, un intervento su questa questione almeno a partire dal 2013. Io mi auguro che questo nell'arco dell'anno venga fatto, perché un segnale da questo punto di vista io credo vada ridato. Però l'elemento, Barisoni, più importante di tutta questa vicenda è lo scollegamento, lo scollamento che esiste tra un valore, una retribuzione e la performance, e particolarmente nel pubblico, ma anche nel privato. Nel privato non decolla la parte variabile della retribuzione. Noi abbiamo visto gli ultimi dati di quest'anno, ci sono dei segnali assolutamente ambigui, ci sono dei segnali addirittura negativi. Il timore che in una situazione di difficoltà mi faccia perdere qualche denaro in più mi fa propendere verso un incremento della parte fissa, anche se contenuto, ma non tocchiamo la parte variabile. Questo secondo me è il segnale più pericoloso, vuol dire che culturalmente non c'è stata un'evoluzione positiva. Nel pubblico ma anche nel privato? questo direi anche nel privato, a parte il pubblico non l'ha mai avuta, comunque non c'è un grande, non c'è mercato nel pubblico. No, se lo dice lei Vavassori, perché molti manager dicono ma attenzione, bisogna pagarli bene i manager del pubblico perché sennò vanno nel privato, i top, dicevo. Lei mi dice che non c'è mercato. No, hanno provato, però il risultato è questa direzione. Io la vorrei vedere la fuga del direttore generale dei monopoli, del capo dipartimento della giustizia, con massimo rispetto per le persone, stiamo parlando dei salari, non delle persone. Vorrei vedere la fuga, vorrei vedere quale azienda gli dà mezzo milione all'anno. Ma va. Barisoni, non c'è un benchmark di riferimento per queste persone, quindi è evidente che sono autoreferenti, quindi si fanno gli stipendi in casa sostanzialmente. Insomma. Vabbè, vediamo perché oggi vedo già dei dubbi sul fatto che Monti possa applicare il tetto, già ci provò Prodi, poi fu dimenticato nel governo Berlusconi, adesso vediamo se ci riesce Monti. Vedo che ci sono molti caveat, molti cavilli, come del resto insomma ce ne sono stati per gli avvocati. Avete visto che Monti, ahimè, ha fatto retromarcia su alcune cose delle liberalizzazioni, per esempio gli avvocati, che sono l'unica lobby che non ha bisogno di essere rappresentata da una lobby, perché ce ne sono 133 in Parlamento gli avvocati, e infatti non hanno mica la lobby loro, sono già dentro, insomma, fanno la lobby loro stessi. E quindi eliminata per inciso la norma che obbligava il preventivo. Tanto lo possono fare volontariamente, ho capito, faglielo fare obbligatoriamente, almeno hanno un preventivo, vado dall'idraulico, mi fai il preventivo, vado all'avvocato, fammi anche il preventivo dall'avvocato, ma cos'è sta cosa? Però l'unica lobby che non ha bisogno di una lobby ha vinto ancora. Mi dica una cosa, Vavassori, visto che oggi ci sono molte dichiarazioni sulla riforma del mercato del lavoro, Emma Marcegaglia ha detto bisogna combattere la cattiva flessibilità, quindi le false partite IVA, ma attenzione, i contratti a termine part time vanno mantenuti perché questi consentono di aumentare l'occupazione. I sindacati insistono molto, soprattutto CISL e UIL, accettiamo la flessibilità, ma insomma devono aumentare i salari. Dal suo punto di vista in 30 secondi. Ma il mio punto di vista è questo, che è cattivo e buono. Queste categorie, che sono più categorie di giudizio, di valore, non sono appropriate per il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è un rapporto tra domanda e l'offerta che va regolato. Va regolato con delle regole semplici che tutti possono condividere e soprattutto capire. Il problema è che noi abbiamo messo tanti vincoli che probabilmente bisogna azzerare tutto, non solo l'articolo 18 è una scusa, è un alibi l'articolo 18. Bisogna azzerare tutta una serie di passati pieni di lacci e ripartire da capo per far dialogare bene la domanda e l'offerta. Questo e in questo mi sembra che sia, da quello che ho capito, l'obiettivo del ministro Fornero, cioè creare sul fronte dell'ingresso maggiore omogeneità, ridurre, sfoltire i rami di questa giungla per cui non si capisce più quali siano i contratti in essere. Grazie all'amministratore delegato di ODM Consulting, nonché professore di organizzazione e gestione delle risorse umane, Mario Vavassori. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.